Beginners, la musica emergente su Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio, ben ritrovati con una nuova puntata di Absolute Beginners. Dopo una pausa da ponti vari, torniamo anche noi qui con tanta nuova musica emergente. Oggi pomeriggio sono qui insieme ad Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Paola, ciao a tutti. E direi quindi di iniziare subito con le nostre interviste. Con chi partiamo, Alessandra? Allora, oggi partiamo con i Vat Vat Vat. Parleremo con Giovanni, il cantante, che ci spiegherà qualcosa della storia di questo gruppo emergente e ci parlerà del primo album Vie, uscito da pochissimo. Invece dopo continueremo con i Manitoba, questo duo toscano, e con Filippo parleremo del loro album uscito lo scorso marzo dal titolo Divora, mi è uscito per un'etichetta abbastanza importante, la Sugar. Dopo le interviste torna sempre l'appuntamento con il nostro ex Absolute Beginners, ma ora lasciamo spazio subito alla musica e questi sono i Vat Vat Vat con Audace come l'amore. Raccogli sconfitta, c'è qualcosa che blocca drasticamente le tue fragili dita. La tua penna si ferma e diventi di colpo una massa indistinta, illusa e spenta. E abbiamo appena ascoltato Audace come l'amore dei Vat Vat Vat e abbiamo qui al telefono con noi Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, qui Giovanni Vat Vat Vat. Allora, iniziamo a parlare del vostro gruppo. Voi siete tre ragazzi di Avellino, Giovanni, Giuseppe e Andrea. Toglimi subito una curiosità, cosa significa Vat Vat Vat? Ah, questa è una domanda che ci fanno spesso perché sembra non significare niente questa parola, però ha diciamo molteplici significati. Quello principale diciamo è quello che assume qui nella nostra provincia irpina, tra le nostre montagne, perché vat vat vat deriva dal verbo battere, quindi picchiare, ma non perché siamo dei violenti, ma spesso abbiamo subito atti di violenza, sai, quelle educazioni tipo siberiana, educazione irpina. Invece vat vat vat ci piaceva questa cosa perché siamo nati come dei bambini, anche col progetto. Il bambino è il bambino, il progetto quando è in fascia ha bisogno di urlare, tant'è che all'inizio eravamo molto aggressivi, quindi vat vat vat ci piaceva questa cosa. Sembra funzionare un sacco perché è una cosa che ripetiamo tanto, è tipo un mantra durante i concerti e anche nella vita quotidiana, cioè diciamo sempre vat vat vat, vat vat vat. Bene, dopo averci tolto questa curiosità mi piacerebbe che ci parlassi della formazione del tuo gruppo, la storia dei vat vat vat. Noi siamo praticamente cresciuti insieme, siamo quasi coetanei, i ragazzi sono fratelli, sono Giuseppe e Andrea, sono due fratelli, fratelli solito, io sono diventato, solito il cognome, io sono diventato un fratello acquisito insomma nel corso del tempo. E la formazione, ci sono io alla chitarra e voce, c'è Andrea alla batteria, Giuseppe ai synth bass, arpeggiatori e quant'altro. Abbiamo una matrice molto rock, tant'è che all'inizio proprio ci divertivamo quando eravamo proprio adolescenti a suonare qui nei peggiori pub del mondo pezzi dei Doors e roba varia, tant'è che abbiamo importato da Ray Manzarek la mano sinistra, il fatto di fare il basso con la mano sinistra, oggi lo facciamo con gli arpeggiatori, le sequenze, ma abbiamo sempre questa cosa, affondiamo molto le radici nel blues, nel rock, ma comunque i testi sono italiani, nascono da me che sono un cantautore, quindi nascono comunque in una matrice cantatoriale che poi prende i colori dei Vat Vat Vat nei là negli arrangiamenti. Più o meno questa è la storia è lunga, parte dal 2012, quindi è da un po' che suoniamo, che siamo in giro insomma con il progetto. Abbiamo attraversato anche diverse formazioni, diverse situazioni. Bene, allora voi avete pubblicato un EP nel 2016, Reazioni, ma da pochi giorni è uscito il vostro primo album, Vie. Abbiamo ascoltato poco fa il brano che lo ha anticipato, ovvero Audace come l'amore. Vuoi parlarci di questa canzone di cui avete girato anche un video e del disco? Sì. Certo. Allora è uscito via un album sudato dopo un po' di anni di gavetta in giro per l'Italia a suonare, insomma, e via rappresenta proprio questo l'album, Diverse strade, e poi c'è questa assonanza con la in francese, con la vita, insomma. E ci piaceva pubblicare come un singolo di anteprima, Audace come l'amore, perché un pezzo che, diciamo, è ispirato il titolo, cioè mettere l'amore nel titolo è sempre un po' un azzardo, soprattutto per dei ragazzi tra virgolette rock per come siamo noi, però era la traduzione proprio letterale di Bold as Love, un pezzo di Jimi Hendrix a cui personalmente sono particolarmente legato, e abbiamo voluto mettere nonno Vincenzo, mio nonno, come protagonista del video, perché è una persona reale, è una persona audace come l'amore in tutto ciò che fa, e abbiamo girato, insomma, abbiamo cercato di mettere insieme a Roberto Flami, il regista, a mettere a fuoco quelle che sono le sue cose, insomma, la location del video di Audace come l'amore è una location vera, si chiama La Poesia, è un posto in campagna qui da noi. Ci piaceva partire con Audace come l'amore perché, al di là delle orecchiabilità del brano che ripete Audace come l'amore che entra in testa, ci piaceva partire così con l'amore, ci piaceva partire con Audacia, e quindi l'abbiamo scelto come singolo. E al chiudere Diverse cose, tant'è, vi invitiamo ad ascoltarlo, insomma, oltre ad ascoltare tutto l'album, chiaramente. Certo, io ti ringrazio per questa breve chiacchierata e ti invito a suggerire le modalità attraverso cui è possibile ascoltare la vostra musica e seguirvi. Certo, noi siamo VatVatVat, ci trovate un po' dappertutto, insomma sui social c'è molta tracciabilità della nostra esistenza, basta cercare VatVatVat su Google oppure cercare su Facebook, Instagram, YouTube, insomma siamo presenti, perché tutto ciò che non è tracciabile non esiste, quindi da sempre abbiamo cercato di tracciare, insomma, il nostro passaggio nella realtà e anche nel mondo online, quindi ci siamo, cercate VatVatVat. Tra l'altro sta per partire il tour, siamo in tour ufficialmente, siamo in giro col furgone e ora abbiamo un sacco di date da affrontare, speriamo di vederci live. Grazie mille ragazzi, vi aspettiamo a Bologna, grazie a te. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Quello che vuoi, grazie, ciao, un abbraccio. Fare quello che vuoi, ma non hai tempo, se quello che fai e non c'è scampo, quello che fai, quello che vuoi, quello che sei. Se quello che fai e non c'è scampo, quello che fai, quello che vuoi, quello che sei. cielo nero eppure pieno di stelle. È meglio fissare il muro e non pensare più a niente. È meglio cantare da sbronzi una brutta canzone. È peggio guardarsi negli occhi dopo aver fatto l'amore. Soltanto uno scemo scorderebbe il tuo nome. E io invece sto qui e non corro da te. Sto meglio, sto peggio, sto meglio, sto peggio. Sto meglio, sto peggio, sto meglio, sto peggio. Anche se tutto è brutale, è meglio un bacio feroce che ti rende immortale e stupido. È peggio ricordare il nostro amore ruvido. E sulle note di Divorami diamo il benvenuto da Absolute Beginners a Filippo De Manitoba. Benvenuto. Ciao, ciao, grazie. Bene Filippo, ecco, comincerei subito parlando del progetto tuo e di Giorgia Rossi Monti, Manitoba. Ti va un po' di raccontarci come nasce questo duo che appunto avevo letto, nasce tutto nel 2014 in Toscana, giusto? Sì, in realtà più 2015. Comunque la cosa bella di questo progetto è che in realtà è nato quando eravamo piccolini, al mare. È stato molto bello rincontrare Giorgia e casualmente proprio mettersi in gioco insieme, perché ci eravamo un attimo persi di vista quando eravamo più piccoli. È stato bello rincontrarla a Firenze e cominciare questo progetto insieme. Bene, e Divorami appunto non è solo il titolo del brano che abbiamo ascoltato prima, ma è proprio il titolo del vostro disco che è uscito lo scorso marzo. È un po' sia il brano sia comunque un po' tutto il disco, potremmo dire, poi ispirato a Bukowski, le sue poesie, un po' la poetica, diciamo, che voi vi vedete molto in questo. E ti va però un po' di raccontarci appunto in che cosa vi è di ispirazione? In realtà noi abbiamo citato Bukowski, ma siamo abbastanza onnivori da un punto di vista culturale, cioè ci piace molto ascoltare la musica degli altri, ci piace ascoltare tanti generi musicali e soprattutto ci piace leggere cose diverse, e spesso scriviamo proprio testi con dei libri aperti davanti, perché ci piace prendere ispirazione da tantissime persone e tantissimi autori diversi e anche da molti film che vediamo. C'è tanto Bukowski, ma spesso scrivevamo anche con i libri di poesie di Leonard Cohen davanti, oppure addirittura Saviano, perché siamo dei grandi fan anche di Saviano. Cioè, secondo noi è importante essere molto aperti da un punto di vista di assorbimento. Ci piace assorbire in modo non univoco, perché secondo noi è l'unico modo per stimolare delle coscienze artistiche, no? Perché così, certo, in questo modo puoi capire quello che vuoi veramente dire, perché se non hai stimoli alla fine rischi un po' di dire sempre le stesse cose, no? Esatto, è anche bello poi comunque restituire qualcosa davvero di profondo al pubblico, poi a chi vi ascolta. È bello. E poi se non ascolti gli altri rischi magari di perdere anche un po' di umiltà, no? Perché certo, comunque noi lo facciamo sempre sapendo che c'è un sacco di gente molto più brava di noi, che è stata più brava di noi nel tempo, e cerchiamo di migliorarci grazie a loro. Il vostro album appunto Divorami è uscito per Sugar, che è comunque un'etichetta, diciamo, di tutto rispetto se vogliamo, è una delle, sì, etichette sicuramente più importanti italiane, e che produce comunque tanti artisti molto eterogenei tra di loro, ma sempre comunque molto interessante di qualità. Come siete arrivati alla signora Caselli? Ma senti, è stato, come sempre si suol dire, un caso, però è stato un caso che è arrivato dopo tanto lavoro. Cioè, noi avevamo un conoscente che ci ha portato lì dentro perché faceva una sorta di tale scout per la Sugar, però c'è stato un interesse naturale anche da parte loro, perché noi sin da subito ci siamo messi a suonare ovunque si poteva, anche molto prima del disco, molto prima pubblicando il nostro primo singolo, che era Ti schianterai contro di me. All'inizio del 2016 abbiamo subito cominciato a suonare in ogni situazione, in ogni posto, in ogni opportunità, e questa è una cosa che secondo me è importantissima, perché per esempio già dal Rock Contest che abbiamo fatto appunto a fine del 2016 c'è stato interesse non solo di Sugar ma di un sacco di realtà indipendenti, di diciamo che è stato un caso che ci siamo creati noi, ecco, perché abbiamo sempre suonato tantissimo, che è l'unica cosa che secondo me puoi fare in questo periodo storico da un punto di vista musicale. Poi il resto conta poco, cioè sì, conta, però Facebook, Spotify, YouTube, Instagram sono cose che vengono dopo, secondo me. Assolutamente, sono dei supporti che possono aiutare chiaramente a far poi innamorare ancora di più la gente della propria musica, però il riscontro live è essenziale. Se non suoni è difficile. E a proposito di live, appunto, voi comunque avete aperto, oltre a macinare tantissimi concerti sì, in giro, avete comunque aperto a band importanti come tra le tante Franz Ferdinand e gli Of Montreal, ma sì, proprio il 25 aprile, quindi poco fa, siete stati sia al festival a Genova, e vienimi incontro sì, perché non ricordo il nome. Si chiama Supernova Festival. Esatto. E è stato veramente incredibile perché per la seconda volta, terza volta abbiamo visto cantare la gente, abbiamo visto che la gente era venuta lì appositamente anche per noi, non solo per Eugenio in Via di Gioia che hanno suonato dopo. È stato molto bello, era già successo al Glu in un'altra situazione, ma avendo il disco fuori solo da 2 mesi è una cosa che ti rende molto molto orgoglioso. Filippo, io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, invito tutti comunque ad andare sulla vostra pagina Facebook così da tenervi, da tenerci tutti aggiornati per i prossimi live. Spero veniate presto in Emilia Romagna, magari non so, sull'estate, con qualche concerto bello all'aperto. E noi ora ci andiamo ad ascoltare appunto come Hollywood Pompei, e grazie ancora Filippo. Grazie, ciao. Fino a che ti muove il caos, lasciati guidare. Abbiamo appena ascoltato Hollywood Pompei dei Manitoba, e adesso, come ogni settimana, torna il nostro spazio dedicato ad un ex Absolute Beginners. Questa settimana andiamo a fare un bel tuffo pieno negli anni 90, nel pieno pop punk dei Prozac Più. I Prozac Più nascono nel 95 a Pordenone, un trio fantastico, soprattutto grazie alla sua front woman Eva Poles. Questa settimana abbiamo deciso di ascoltare un brano tratto dal loro album, appunto, del 96, il loro primo album Testa Plastica, album con la quale si erano già fatti notare. Il loro singolo però più famoso è Acido Acida, che quest'anno compie ben 20 anni, e per festeggiare ci sarà una reunion, non reunion, come hanno tenuto a precisare. Infatti potremo ascoltarli il 26 maggio al Miami a Milano e il 31 agosto all'Home Festival di Treviso. Pensate che la loro ultima esibizione risale al 2007, 2017 era un MTV Day, l'ultimo fatto a Bologna. Non hanno mai dichiarato di essersi effettivamente sciolti nonostante un lungo periodo di inattività. E noi ora ci andiamo ad ascoltare appunto dall'album Testa Plastica Legami. Absolute Beginners finisce qui, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre qui alle 14.30, e se volete riascoltare tutte le nostre vecchie puntate in podcast vi consigliamo di seguire la nostra pagina Facebook Absolute Beginners RCF. Ciao, alla prossima!